No, non c'è graffio. Guarda. Il sangue ancora. È là, è là. Sacramento, la scelta noi a corda a pistola. Pronto, taglia, a te.

nulla. Andiamo. Donerai che vorrà. E tu vorrai. I padroni siamo noi, andiamo. E tu vorrai. Andiamo, ragazzi. È necessario. Non lo vorrei. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。